I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Buongiorno, il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Ministro dell'Economia Padoan si sono dati 2 settimane per presentare il DEF, il documento economico-finanziario che rappresenta la struttura, lo scheletro della prossima manovra finanziaria. Non stiamo parlando, per essere ancora più precisi, della cosiddetta manovra correttiva da 3 miliardi e 400 milioni, quella chiesta dall'Europa sul nostro deficit che, come chiarito ieri dal governo, conterrà anche 1 miliardo di euro per favorire l'economia delle zone terremotate. Stiamo parlando della manovra vera e propria, quella appunto per il 2018, che avrà come primo obiettivo il disinnescare i 20 miliardi di clausole di salvaguardia che scatterebbero in automatico su IVA e accise se non venisse fornita una copertura. Da più parti si è chiesto che sia una manovra di ampio respiro e di rilancio dell'economia, lo ha fatto anche ieri la Confindustria per voce del Presidente Boccia, chiedendo di arrivare a un progetto di inclusione dei giovani senza lavoro che porti a una riduzione o addirittura azzeramento del cuneo fiscale per i neoassunti. E qui veniamo allo scoglio vero e proprio. Al Paese servirebbe una manovra appunto di ampio respiro, anche perché il 2018 potrebbe essere l'anno in cui i benefici della politica espansiva della BCE vanno ad esaurirsi. Ma in realtà il timore vero è che una manovra sotto elezioni, sebbene la data non sia ancora chiara, finisca con l'essere una manovra chiaramente elettorale, ossia di breve respiro e manutenzione ordinaria, cercando di scontentare il minor numero di categorie possibili, ma in questo modo non disegnando alcuna strategia per il futuro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Vale la pena di fare un po' d'ordine nella questione del gasdotto TAP, che oggi è stata al centro di alcuni scontri tra manifestanti e polizia a Melendugno, in provincia di Lecce. Il TAP è il Trans Adriatic Pipeline, un metanodotto che porta il gas dall'Azerbaigian, passando per la Georgia, la Turchia, la Grecia, e per attraversare infine l'Adriatico e sbarcare proprio sulle coste salentine. Avrà un costo finale di 46 miliardi e porterà 9 miliardi di metri cubi di gas in Europa. La regione è contraria da sempre, ma i numerosi ricorsi sono stati respinti e le autorizzazioni dei ministeri sono considerate del tutto regolari. Si tratta di consentire uno scavo di 1 metro circa per 8 chilometri per superare la costa, per poi arrivare ad agganciare il nuovo tubo, che è largo meno di 1 metro, alla dorsale adriatica, che già ora provvede a smistare il gas in tutta Italia con 32.000 chilometri di pipeline invisibile. Nel frattempo si dovranno espiantare 231 ulivi e spostarli in un vivaio per poi riposizionarli nella loro sede naturale a lavori ultimati. Non è un'eccezione, si fa sempre così, lo ha fatto più volte anche l'acquedotto pugliese per posare le proprie condutture, ma il TAP è diventato un simbolo e la protesta sembra aver superato ormai ogni ragione razionale. I motivi strategici per concludere i lavori sono assai importanti, sia per la diversificazione delle fonti energetiche per l'Italia, sia perché l'entità del disagio alla fine è del tutto gestibile. L'Azerbaigian conta sulla realizzazione sia per affrancarsi in parte dalla produzione di petrolio, sia per instaurare un legame fisico con l'Europa e avere una sorta di assicurazione contro l'influenza russa nel Caucaso. E anche per l'Europa, francamente, superare lo strapotere del gas russo e di questi tempi non è proprio un'idea così peregrina. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.